Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Scusatemi, partiremo subito dalle notizie che riguardano sostanzialmente il federalismo, l'incontro infatti tra il governo e i rappresentanti dei sindaci. Sembra che abbiano ottenuto, anzi dovrebbero aver ottenuto a questo punto, una riscrittura del testo che riguardava le competenze comunali. Ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo, i sindaci, devo dire in maniera abbastanza trasversale, lamentavano nuove richieste sul fronte sia della tassa di soggiorno sia sulla manovrabilità di quella che si chiama addizionale IRPEF, cioè la quota dell'IRPEF in capo ai comuni, sia il, per quello che riguarda la tassa sui rifiuti, una rapida definizione della disciplina che appunto regola la tassa sui rifiuti, e anche l'aliquota dell'IMU, che sarebbe la nuova ICE da stabilirsi sulla base del gettito che verrebbe generato, e quindi non in maniera automatica da Roma verso i comuni. E poi anche vogliono capire chi si farà carico delle eventuali perdite di gettito dei tributi immobiliari. Insomma, un insieme di elementi per cui possiamo dire che nella sostanza i comuni temono di vedersi da un lato dei trasferimenti da un lato troppo ingabbiati, troppo calati dall'alto verso i comuni, che non tengono conto delle diverse esigenze, dall'altro temono anche di non avere abbastanza margine di manovra. Nel caso specifico della tassa di soggiorno invece c'è una critica un po' diversa, cioè vorrebbero che venisse estesa non solo ai capoluoghi ma a tutti i comuni, e poi che possa arrivare fino al massimo individuato per Roma capitale, ossia fino a 10 euro al giorno. Di questo parleremo in apertura. Poi l'incontro tra Federmeccanica e sindacati, dopo l'annuncio, abbiamo avuto ospite il direttore generale la settimana scorsa, che anche Federmeccanica intende andare sulla linea della Fiat, ossia avere dei contratti aziendali che possono essere sostitutivi di quello nazionale. Di questo parleremo chiaramente più avanti, ma parleremo anche dell'intervento fatto ieri dalla Presidente Confindustria Emma Marcegaglia nel corso del programma di Fabio Fazio, per quello che riguarda, insomma, il tempo perduto, i 6 mesi di non governo. Allora, è tutta la settimana, ed è 10 giorni ormai, che stiamo al di fuori da qualunque polemica di carattere politico, scandalistico, pruginoso. Quello che cercheremo di capire oggi, quali sono i temi in agenda e le priorità che, secondo vari osservatori, il governo in questo momento ha dimenticato, preso da altre vicende di carattere, chiamiamole così, politico. 349-238-6666 per i vostri sms, come sempre però un aggiornamento dalla borsa. Lo 0,25% è guadagno di Milano in questo momento, meglio fa Parigi più 0,40, peggio fa Francoforte che perde lo 0,1, la migliore in questo momento è Londra, guadagna quasi un punto percentuale, l'America guadagna mezzo punto percentuale, forte l'euro che è a quota quasi 1,37, siamo 1,36,7. Per la precisione, chi va male oggi in borsa? Beh, soprattutto Fiat, continuano i realizzi su Fiat, perde a questo punto il 4% Fiat Industrial, quindi camion e trattori, macchine in movimento terra, da un lato, dall'altro Fiat Auto perde il 2,74%, il quarto peggior titolo dopo questi due è Exor, la finanziaria di controllo, meno 2,20%, Saipem meno 2,6%, Pirelli meno 1,70%, Diasorin meno 1,5%, ST Microelectronics meno 1,3%, Tenaris perde l'1%. Fronte opposto invece va molto bene il Banco Popolare, più 5,3%, la Popolare di Milano guadagna il 2,5%, Unicredito più 1,80%. Bene tutte le banche, quindi, con l'aggiunta anche di Intesa San Paolo che guadagna lo 0,4%. Ancora Mediaset più 1,7, Telecom più 1,6, Campari più 1,4, Luxottica più 1,3%, Snam più 0,80%. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Rapidamente le notizie in breve. L'oro, com'è l'oro, volete sapere? Beh, insomma, è alcune settimane che è abbastanza stabile, 1353 dollari l'oncia. Invece potrebbe esserci, anzi è probabilissimo che vi sarà una certa tensione sul cacao e il caffè. Perché? Perché il governo della Costa d'Avorio, o meglio uno dei due presidenti proclamati, è un caos in Costa d'Avorio, e mi riferisco a Alassane Kattara, ha emesso un comunicato nel quale si informano gli operatori economici del blocco immediato di tutte le esportazioni di cacao e caffè. Ricordate che insomma dopo l'elezione dello scorso 28 novembre in Costa d'Avorio sono stati nominati, si contendono la presidenza due presidenti, uno appunto Ouattara, l'altro è Gbagbo, e insomma 260 morti fino adesso, ma soprattutto il blocco dell'esportazione di caffè e cacao porterà con ogni probabilità a un rialzo dei prezzi delle due materie. Petrolio in calo a New York, 88,7 dollari al barile, secondo il ministro saudita del petrolio Ali Al-Naimi. La domanda di petrolio nel 2011 potrebbe crescere del 2%. E di energia ha parlato oggi anche il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, che ha manifestato il suo apprezzamento per l'infrastruttura promossa da Gazprom ed Eni, il gasdotto South Stream, quello che fu oggetto anche di numerose dichiarazioni quando vennero pubblicate i vari rapporti delle ambasciate in Wikileaks. Ebbene, Romani ha ribadito il forte interesse del governo e dell'Eni per South Stream. Nabucco e South Stream partono, hanno due origini diverse, come lei sa. Sì. South Stream nasce in Russia e Nabucco dovrebbe partire o dall'Azerbaigian o dal Turkmenistan. C'è stata recentissimamente una visita di Barroso e di Oettinger in questi due paesi. Noi siamo fortemente interessati a South Stream. L'azienda Eni è fortemente interessata a South Stream. L'Italia è fortemente interessata a un rapporto privilegiato con la Russia. Noi abbiamo già un collegamento con l'Azerbaigian che riguarda un'altra azienda italiana con l'ITG di 8 miliardi di metri cubi, e quindi per quanto riguarda il nostro paese sappiamo quali possono essere le linee di opzione. Ovviamente queste linee di opzione devono avere poi un riscontro a livello europeo. Restiamo in tema di economia internazionale. Rallenta, si fa per dire, la crescita economica cinese. Il PIL nel 2011 dovrebbe crescere del 9,8% contro il 10,3% del 2010, con un tasso di inflazione mantenuto intorno al 3,7%. Restiamo in Asia perché le vendite di General Motors di auto in Cina hanno superato per la prima volta nei 102 anni della storia quelle fatte da General Motors in America. Poi no, ogni tanto qualcuno ancora polemizza sulla Cina come mercato e pensa che i cinesi siano solo degli invasori che copiano. Attenzione, General Motors vende più auto in Cina a questo punto praticamente più auto, non poche, 136.000 auto in più in Cina rispetto a quanto è venduto negli Stati Uniti, ossia 2.350.000 auto vendute in Cina nel solo 2010. Alcuni ci chiedono cosa ne pensate dell'apertura imminente della banca cinese ICBC a Milano, opportunità o rischio colonizzazione? Ma per me è solo opportunità, magari venissero le banche e gli investimenti stranieri in Italia. Il rischio colonizzazione non si combatte evitando che aprano le banche cinesi in Italia. Comunque andiamo avanti. Toyota invece è riuscita a respingere, tra virgolette, l'assalto di General Motors, si è confermata anche nel 2010 il primo produttore di auto a livello mondiale, seppur di pochissimo, per sole 30.000 auto. Ricorderete tutti i richiami, milioni di vetture richiamate dalla Toyota nel 2010, tra fine 2009 e 2010. Comunque Toyota ha venduto 8.410.000 veicoli contro 8.390.000 di Detroit, più 8% per Toyota e più 12% per General Motors. I bonus dei banchieri, tema che ci sta molto a cuore. Alla Barclays, il nuovo numero uno, Bob Diamond, avrebbe in serbo un piano per rivoluzionare il sistema dei bonus, introducendo dei bonus che si trasformerebbero in carta straccia se le sorti del gruppo dovessero andare peggio, cioè se i risultati dovessero virare in negativo. Passiamo all'Italia con una buona notizia, perché McDonald's, che già negli anni pieni della crisi ha continuato a assumere, ha chiuso il 2010 con un giro d'affari di 900 milioni di euro in Italia, più 8,5% rispetto all'anno precedente, con 411 ristoranti McDonald's in Italia. Ne verranno aperti altri 23 quest'anno, rinnovati 41 già esistenti e 1000 assunzioni nel 2011. A livello mondiale invece McDonald's ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 1 miliardo e 240 milioni di dollari, con ricavi in aumento del 5%. Volete già avere notizie, insomma, del tema che tratteremo nella seconda ora, dopo le dichiarazioni rese ieri dalla Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che ha detto da 6 mesi l'azione del governo non è sufficiente, ha tenuto i conti a posto nei primi mesi della crisi, ma adesso serve di più. Abbiate un po' di pazienza e arriveremo all'agenda, diciamo, politico, agenda di economia politica, di politica economica del governo. Vorrei dare ancora 2 notizie prima di passare all'apertura, ossia al federalismo. Da un lato il rapporto di Intesa San Paolo sui distretti, di cui ci occuperemo anche domani, ma insomma il rapporto è uscito poco fa. Vede dei distretti italiani reagire alla crisi. Nel 2010 il fatturato è tornato a crescere del 7%, grazie soprattutto alle esportazioni, e nonostante la crisi, rilevano gli economisti di Intesa San Paolo, non è prevalso un orientamento difensivo, ma hanno messo in campo le varie aziende presenti nei distretti industriali delle strategie di attacco. E la cosa che ci fa particolarmente piacere è che è stato un vero e proprio boom l'export dei distretti verso la Cina e verso il Medio Oriente. Praticamente il peso dei nuovi mercati è giunto al 34% nei primi 9 mesi del 2010, contro il 22% che aveva nel 99, e il peso di India e Cina sulle esportazioni complessive ha mostrato un aumento di quasi il 38% negli ultimi 2 anni. Nel frattempo anche i cinesi nel tessile sono fortemente presenti in Italia. Pensate che, secondo la ricerca sempre di Intesa San Paolo, dell'ufficio studi, il 37% delle aziende tessili in Italia, cioè una su tre, più di una su tre, ha un datore di lavoro cinese e probabilmente la maggior parte della manodopera cinese. I saldi, primo bilancio sui saldi lo ha fatto oggi il presidente di Federmoda. Andamento stazionario al nord, flessione del 3% nei saldi al sud, un dato che obiettivamente è in linea con quanto ha denunciato recentemente la grande distribuzione, che ha visto per la prima volta da sempre un calo nelle vendite nel 2010 dell'1,2%. Grande distribuzione vuol dire grandi catene di supermarket, ma non solo. Dicevamo, saldi fermi al nord, addirittura in flessione al sud. Il presidente di Federmoda, Renato Borghi, al microfono della nostra Paola Nania. Innanzitutto non si può sostenere che ci sia un'uniformità di risposte da parte delle aziende che abbiamo interpellato. In alcune realtà, mi riferisco a realtà prevalentemente al nord, c'è un piccolo incremento, per cui per il nord potrei dire che c'è una stazionarietà in generale. Invece per il centro-sud siamo su una media di flessione del 3% rispetto ai dati dello scorso anno. Meno 3% al sud, mediamente? Centro e sud, sì. E invece al nord più o meno la situazione rimane stabile rispetto all'anno scorso? Stabile rispetto all'anno scorso, con alcune città che segnano un incremento dell'1-1,5%, quindi al netto dell'inflazione, insomma, siamo in condizioni di stazionarietà. Per esempio Milano discretamente, per esempio Bologna, per esempio Trento, invece come negatività, diciamo, uno degli andamenti più pesanti l'abbiamo avuto su Roma, dove c'è un dato di una flessione dell'8%. I motivi stanno in un contesto che economico come quello attuale, dove i consumi sono ancora deboli, perché insomma entrambi i motori dei consumi, quindi il reddito disponibile netto delle famiglie, soffre in quanto il reddito non aumenta, e poi abbiamo anche la situazione relativa al sentiment, che è l'altro grande motore dei consumi, quindi alle aspettative delle famiglie, che non sono certamente in questo momento rose. Così appunto il presidente di Federmoda. È significativo il calo a Roma, oltre che nel sud in generale, meno 8% a Roma, stazionario al nord, dopo vendite deludenti sotto Natale. Ora possiamo girarla come vogliamo, ma insomma i consumi non ripartono. A questo proposito devo anche rispondere a chi dice va bene insomma che McDonald's assuma, ma assumerà 1000 persone pagate male, sfruttamento, scrivono alcuni. Ma non so, non ho idea in questo momento dei contratti, sicuramente sono contratti flessibili quelli di McDonald's. Non abbiamo esaltato McDonald's, dico solo che questi tipi di contratti non li fa mica solo lei, perché le aziende dei servizi come assumono? No, vabbè, passiamo al federalismo, su cui si cerca di trovare una quadratura nel cerchio federale dopo la bocciatura totale dell'ANCI. Cosa ha bocciato l'ANCI, ossia l'associazione che riunisce tutti i comuni italiani? Vuole in sostanza che vi sia un'effettiva analisi per quello che riguarda l'IMU, cioè la nuova ICI, sulla base dell'imponibile, del gettito che verrebbe generato, per sapere qual è l'aliquota di equilibrio, cioè per capire insomma quanti soldi entreranno dalla reintroduzione di fatto dell'ICI. La tassa di soggiorno l'abbiamo già spiegata, vuole che venga estesa anche a tutti i comuni, non solo ai capoluoghi, e che possa essere oscillare, come viene permesso al comune di Roma, fino a un massimo di 10 euro. Poi, insomma, la perdita di gettito dei tributi devoluti, vogliono capire chi si farà carico delle eventuali perdite di gettito dei tributi immobiliari, e vorrebbero che se ne facesse carico lo Stato. E poi ancora l'addizionale comunale sull'IRPEF, bloccata in questo momento, vogliono che venga sbloccata, e vogliono che la compartecipazione al 2%, vorrebbero insomma che fosse contrattabile con governo e Parlamento. Ultimo aspetto, la rapida definizione della disciplina della TARSU, cioè della tassa sui rifiuti. Vogliono i comuni che venga salvaguardato il ruolo ma anche la funzione dei comuni in tema di gestione dei rifiuti e anche dell'imposta della tassa di scopo, eliminando il rinvio a nuovi decreti integrativi. Queste le obiezioni. Oggi incontro presso il Ministero dell'Economia tra il Ministro della Semplificazione Calderoli e una delegazione dell'ANCI, dei comuni italiani, per trovare un punto di contatto. L'ha seguito il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buonasera. Sì, buonasera. E possiamo parlare quindi di incontro chiarificatore qui al Ministero dell'Economia tra governo e rappresentanti dei comuni, il faccia a faccia tra il Ministro per la Semplificazione Calderoli e il Vicepresidente dell'ANCI Osvaldo Napoli ha portato alla promessa del governo di riscrivere il testo messo sotto accusa dalle municipalità. Ricordavi, Sebastiano, i vari punti che hanno suscitato le perplessità dei comuni, soprattutto sul fronte dell'IMU, l'imposta municipale unica. Il governo ha garantito Napoli all'uscita dell'incontro, ci ha garantito una soluzione efficace, ha detto Napoli, e possiamo ascoltare Osvaldo Napoli proprio al termine dell'incontro con Calderoli. Credo che sia stato un incontro estremamente franco, molto concreto. Il ministro ha ascoltato tutte le nostre problematiche, le nostre richieste, lui ha prospettate le loro, ma direi che, come dire, abbiamo iniziato un lavoro che potrebbe darsi che ha una parte di positività, non tutta, Quindi aspettiamo un attimo che il ministro Calderoli ci proponga un nuovo testo rispetto a quello che ci ha dato, e a quel punto lì gli organi preposti, quindi l'ufficio di presidenza, il presidente Chiamparino insieme al Consiglio nazionale, deciderà se quelle proposte che ci hanno fatto sono proposte che possiamo accettare o meno. Rispetto alle nostre richieste, alcune prospettive di diversità, non ci sono dubbi che quindi ci sarà un nuovo testo rispetto a quello che ci hanno dato. Noi abbiamo presentato il nostro, quindi in alcune parti diciamo che c'è un indirizzo di trovare un accordo in senso generale, che non è accordo se non dopo approvato sia da parte loro sia da parte nostra. Quali sono i nodi che lei vede più difficili da superare, da sciogliere? Beh, in tutti i casi sull'IRPEF, l'addizionale IRPEF, lo sblocco dell'addizionale IRPEF, nello stesso tempo l'applicazione dell'IRPEF a partire dal 2014, il fondo perequativo e per ultimo mi pare che ci sia il discorso del 7.4 dello 0.74 sulla tassazione immobiliare. Ecco, quelle sono le problematiche che abbiamo presentato e che quindi riceveremo una controproposta. Queste dunque le parole di Osvaldo Napoli al termine dell'incontro con Calderoli. Per quanto riguarda i tempi, il parere della Commissione bicamerale sull'eventuale nuovo decreto legislativo, ha anticipato il Presidente La Loggia, potrebbe arrivare la prossima settimana, quindi il 2 febbraio. Sentiamo proprio il Presidente La Loggia prima del suo intervento con Calderoli. Domani c'è commissione, quindi discuteremo un po' anche degli emendamenti che sono stati presentati e vediamo sino a che punto si arriva nella giornata di domani. E domani faremo anche il calendario delle sedute che mancano da qui al giorno 2 per il voto finale. Da quello che ho capito sono richieste che possono essere prese in considerazione positivamente. Beh, è uno dei punti qualificanti dell'azione del governo e quindi sicuramente il governo su questo è molto impegnato. Sono veramente ottimista, credo che ci siano tutte le condizioni per arrivare ad un buon decreto nei tempi previsti. Grazie a Vincenzo Miglietta in collegamento con noi dal Ministero dell'Economia, dove appunto si è tenuto l'incontro tra il Ministro della Semplificazione Calderoli e la delegazione dell'ANCI. Vedo che molti ci chiedono al 349-238-6666, ma insomma, da quello che abbiamo capito, arriveranno più tasse dal federalismo. Ma in realtà non necessariamente, voglio dire, avere una sbloccare l'addizionale comunale sull'IRPEF, dare una possibilità di tasse di soggiorno fino a 10 euro, valutare l'IMU, insomma, non è detto. Il punto molto semplice è che i comuni non vogliono rischiare, punto di vista, che risultare penalizzati dai trasferimenti Stato Comune, quindi vogliono capire dove si porrà l'asticella, la cosiddetta aliquota di equilibrio su questo. Poi diciamolo tutto, è chiaro che se si sblocca l'IRPEF molti comuni probabilmente useranno l'addizionale comunale sull'IRPEF. A mio avviso il problema vero è come viene usata, perché se viene usata per servizi al cittadino migliori si può anche pagare, altra cosa invece è se viene usata per pagare buchi di bilancio, ma lì poi dovrebbero essere sanzionati a quel punto gli stessi sindaci, e quindi l'elettore alla leva. Questo è un po' il principio del federalismo fiscale. Comunque, dopo il metro e la pubblicità c'è il tema dell'auto, incontro importantissimo oggi tra Federmeccanica, quindi mondo dei metalmeccanici, e i sindacati FIM, WILM, UGLM e Federmeccanica. Non ha partecipato la FIOM, che non ha firmato l'ultimo contratto di categoria del 2009. L'oggetto era capire, insomma, come si può modificare ulteriormente il contratto dopo le dichiarazioni rese da Federmeccanica la settimana scorsa, che ha detto in sostanza: a questo punto il contratto aziendale non è solo integrativo di quello nazionale, ma può prenderne il posto e quindi può valere quanto un contratto nazionale. Dopo il metodo e la pubblicità vediamo cosa è emerso. 349-238-6666 per i vostri sms. Molti ci chiedono: ma che è successo al progetto di abolizione delle province? È la classica promessa elettorale, quindi nulla è successo. Meteo. ...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare all'incontro Federmeccanica sindacati, parliamo di borsa. Vedo ancora molti messaggi sul federalismo, però insomma vedremo che cosa che cosa arriverà dal nuovo documento che il ministro Calderoli ha promesso di far arrivare poi in commissione, far approvare in commissione entro il 2 di febbraio. Anche il senatore Alloggio abbiamo sentito su questo. La borsa. Ancora, oddio, tutti quanti sul federalismo. Addirittura chi mi dice che ho delle idee becero leghiste perché le tasse aumenteranno. Ripeto, vedremo. L'unica cosa che sappiamo in questo momento è che l'impianto del federalismo fiscale, in cui si vanno a stabilire dei costi standard per tutti, soprattutto sulla sanità, attenzione, il 70% del buco degli enti locali è dovuto alla sanità. E il 70% di questo buco sanitario si colloca in 3-4 regioni, per cui quello è il tema. I costi standard, a nostro avviso, sono un elemento corretto che unisce il paese, non lo divide, così come la sacca di plasma che spesso citiamo dovrebbe costare allo stesso modo, diciamo più o meno, non 16 volte da una parte rispetto all'altra. I trasferimenti, la possibilità di avere... di far emergere per esempio gli immobili in nero, visto che i comuni parteciperanno poi all'emersione del sommerso. Altri elementi di carattere tecnico fanno bene i comuni a mettere i puntini sulle i, visto che si sono visti bloccare le addizionali comunali e anche i trasferimenti con la manovra finanziaria ultima sono stati fortemente penalizzati sia i comuni che le regioni. La borsa però adesso, e allora ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, che è successo al Banco Popolare che dal 17 gennaio che continua a salire, ha preso quasi il 10%? Sì, poco dopo diciamo, l'annuncio dell'aumento di capitale. Di 2 miliardi, sì. Sì, che aveva provocato inizialmente un calo del titolo perché insomma avveniva fondamentalmente a valori più bassi di quelli di mercato, calcolando poi gli aggiustamenti teorici. Poi invece il titolo è risalito, maggior fiducia diciamo da parte del mercato nell'operazione, poi gli stessi operatori di borsa riferiscono di aggiustamenti sul prezzo anche in ragione poi dell'aumento del prezzo dei diritti. In pratica dobbiamo anche ricordare che siamo a metà del periodo per la contrattazione dei diritti in borsa. Eh sì, bene anche Popolare di Milano più 2,60% e bene Unicredito più 2,2%. Su Unicredito ci sono delle dichiarazioni del nuovo amministratore delegato Federico Ghizzoni abbastanza positive sul 2011. Sì, lui dice sarà un 2010 migliore migliore del 2010, verrebbe da dire, non è che ci voglia molto più il 2010 che c'è stato. Comunque gli operatori di borsa hanno accolto diciamo queste parole positivamente, Unicredito più 2,2%, anche Popolare di Milano, come hai detto tu bene, più 2,6%, un comparto del credito che ha aperto la settimana insomma in modo abbastanza brillante. Allora, male invece oggi tutto il gruppo Fiat. Fiat Industrial la peggiore, meno 4,41%, Fiat Auto meno 2,81%, Exor meno 2,1%. Sì, diciamo, qualche realizzo su questi titoli che erano cresciuti molto insomma nelle scorse settimane, ma anche un comparto auto che in Europa ha pagato dazio, a seguito sostengono gli operatori dei rinnovati timori su un rialzo dei tassi cinesi. Come possono influire i tassi cinesi sulle auto europee? Fondamentalmente diminuirebbero diciamo la crescita economica cinese e quindi si stima una diminuzione dell'import della Cina di auto dall'Europa. Sì, devo dire che il nesso logico mi sfugge un po', cioè la Fiat esporta pochissimo in Cina, però insomma era forse una reazione condizionata al resto del settore in Europa. Sì, diciamo che magari qualcuno ha anche approfittato di questa voce perché, magari la Fiat esportasse in Cina quello che esporta Volkswagen. Però questo lo stesso Marchionne ha riconosciuto che con la Cina gli accordi a suo tempo non furono un successo, che ci stanno riprovando. Andiamo avanti, Saipem meno 2,45, Pirelli meno 1,90% e Diasorin meno 1,26%. Tra chi è andato bene invece segnalo Campari più 1,40%, Mediaset più 1,60%, Telecom più 1,80%, l'Automatica più 1,05%. Tra i migliori e i peggiori in assoluto abbiamo Prima Industria più 19,47% e Mondo Home Entertainment più 19,38%. Che succede a Mondo TV? Mondo TV oggi si è aggiudicato, diciamo, ha annunciato un accordo per la diciamo, la trasmissione di cartoons con l'americana NBC, diciamo, un accordo prestigioso che si aggiunge già a un'altra intesa che aveva annunciato settimana scorsa, che era per la produzione di una serie TV legata a Celentano. Quindi insomma due accordi che hanno portato il titolo fondamentalmente a raddoppiare da inizio gennaio. Ancora tra i titoli, il peggiore è in realtà SNAI sulle ordinarie, perde il 9,40%. Allora, su questo abbiamo un'intervista al numero uno di SNAI, perché mi riferisco al presidente, mi sono legato a Maurizio Ughi, ne parliamo tra un attimo. Vorrei concludere con gli altri titoli prima. Prima Industrie. Sì, Prima Industria invece oggi ha annunciato un migliore boom, in assoluto, sì, 19,47%. Ha annunciato un boom sull'acquisizione ordini nel 2010, quindi fondamentalmente andrà anche a beneficiare il bilancio, e soprattutto nell'ultimo trimestre, in cui ha registrato più 40% rispetto al 2009. Quindi almeno per questo gruppo sembra che insomma la crisi sia finita dal punto di vista industriale. E la borsa una volta tanto festeggia su dei dati di mercato, trachinato male anche Philips meno 5,23, trachinato bene Casa Damiani più 6,21, TXT più 9,25, Sole 24 Ore più 6%, traffico, e poi ascoltiamo l'intervista alla SNAI e il tuo commento poi sull'operazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Di nuovo in diretta, allora, la SNAI, che è il marchio di riferimento, come sanno molti, nelle scommesse ippiche, ha più di metà del mercato, raccoglie quasi un miliardo di euro di sole scommesse ippiche, poi ha le scommesse sportive, controlla un terzo del mercato, 1.400.000 di raccolta, e il poker online, quinta per volume d'affari, 190 milioni circa di raccolta, 6% del totale, e poi anche gli apparecchi da intrattenimento, praticamente 2 miliardi e 8 al 9% del mercato, che vale, pensate, 31 miliardi di euro. Che è successo oggi? C'è un'operazione importante in cui due società hanno rilevato la maggioranza di SNAI, 50,68%. Sì, operazione di cui si vociferava da mesi, oggi è stata conclusa ufficialmente. Palladio Investing Asset, che sono due private equity, hanno rilevato, appunto, come dicevi tu, la maggioranza della società. Dobbiamo dire che è avvenuta a un prezzo unitario, cioè verrà lanciata poi un'offerta pubblica d'acquisto, anche a garanzia degli azionisti di minoranza, a un prezzo unitario che era inferiore al prezzo di borsa. Sì. E quindi insomma la borsa si è adeguata e il titolo ha perso. Perché loro offrono 2,36 euro per azione, oggi valeva 2,53 euro in apertura, infatti si è portata sul prezzo dell'offerta, 2,38 euro, sì. Meno 9,40%, perderà ancora qualcosina, ma insomma poi si ferma a 2,36 euro. Dicevamo del presidente Maurizio Ughi, amministratore delegato di SNAI, a cui la nostra, o meglio la vostra, perché la collega tua dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Simona Rossitto, ha chiesto un giudizio sui termini dell'accordo, su questo prezzo anche a 2,36 euro. Se non ero soddisfatto non lo sottoscrivevo, poi che un contratto avvenga dopo una trattativa magari anche lunga e sofferta e perciò con la mediazione delle parti, anche questo è vero, però ovviamente nessuno ci ha imposto di firmare questo contratto e perciò l'abbiamo firmato perché ritenevamo opportuno sia per recuperare il debito della capogruppo, il debito di capitale della capogruppo, sia perché l'introduzione di nuova finanza nella società operativa può far ultimare tutti i programmi di sviluppo, che sono tanti, della società operativa, appunto, di SNAI S.p.A. Tuttavia la borsa non ha reagito positivamente oggi all'annuncio dell'operazione, il titolo ha perso anche il 9%. Io ritengo che forse non sia stato interpretato bene o forse ancora analizzato bene il comunicato e cosa consegue da quel comunicato, e perciò come avviene la vendita del pacchetto di azionario maggioranza. Noi abbiamo un importo immediato per cassa e un importo con un earnout che si potrà verificare nei prossimi 15 anni, e perciò praticamente ci rimane ancora sugli utili e su eventuali rivendite degli attuali fondi, un'alta percentuale che corrisponde al 9,92, il che vuol dire che un venditore delle azioni come abbiamo venduto noi potrebbe percepire il solito sistema, oppure potrebbe darsi che nel tempo fosse fatta anche un'offerta per cassa, completamente per cassa, senza il fatto dell'earnout, ma quantificando subito il valore dell'earnout. Sulla caduta del titolo potrebbero aver inciso anche delle speculazioni durante la fase delle trattative? Assolutamente no, non ritengo. Ritengo che i fondi che hanno trattato con noi sono fondi molto seri e che non si presterebbero mai a queste situazioni, a fare operazioni non lecite. Senta, nel passaggio di proprietà rientrano anche i terreni di SNAI, cioè in particolare cosa si è deciso sui terreni dell'ippodromo, quelli a fianco allo stadio di San Siro? I terreni sono di proprietà di SNAI S.p.A., perciò essendo stato ceduto il pacchetto di maggioranza, il 50,68 della SNAI S.p.A., all'interno di SNAI S.p.A. Ci sono anche le proprietà immobiliari. Oltre alla gestione degli ippodromi ci sono anche le proprietà immobiliari. Di conseguenza sono passate di mano, passeranno di mano al closing anche le proprietà immobiliari. Senta, tra i pretendenti alla maggioranza di SNAI c'era anche un grande gruppo dei giochi, Sisal. Come mai non le trattative insomma hanno visto la vittoria dei due fondi? C'è una grande sinergia a livello di obiettivi, sarebbe stato un gruppo veramente favoloso, una grande forza. Però i soci, noi e i soci di Sisal non sono riusciti in questa fase a trovare un accordo sulle valutazioni delle due aziende. Purtroppo la cosa si è fermata ancora prima di poter procedere a fare tutte le varie operazioni, anche con i tecnici, con i consulenti, a fare le due diligence delle due aziende. È stato un grande cruccio da parte mia anche il fatto di non essere riuscito a realizzare questo che da sempre è un sogno, di mettere insieme tutte e due le società, però forse poi nel tempo ci riusciranno i nuovi soci, i nuovi azionisti. Presidente, lei e gli altri membri del Consiglio manterrete un ruolo nel futuro assetto del gruppo oppure no, non è previsto? Nel contratto di compravendita non è previsto, ovviamente io che insieme a altri soci abbiamo creato questa società e l'abbiamo seguita fino a questo momento, io in particolare come amministratore, come presidente e amministratore delegato, ovviamente sono perfettamente a disposizione, gli attuali azionisti lo sanno, però ovviamente non c'è alcun impegno da parte loro, io non pretendo assolutamente nulla, se vorranno darmi un qualsiasi ruolo sarò ben lieto di poter accettare. Così appunto il numero uno di SNAI, di cui anche il presidente Maurizio Ughi, intervistato dalla collega dell'agenzia di stampa Radio Coro sulle 24 ore, Simona Rossitto. Ringrazio un altro collega dell'agenzia di stampa, che è Cioè Condina, per l'aggiornamento di borsa. E adesso passiamo al tema dei rapporti nel mondo della metalmeccanica tra sindacati e Federmeccanica con il nuovo modello contrattuale. Dicevamo che già la settimana scorsa il direttore generale Santarelli aveva anticipato, insomma, Federmeccanica ritiene di poter andare oltre già gli accordi firmati a gennaio 2009, quelli a cui non partecipò la FIOM, che davano più spazio al contratto aziendale, quello di secondo livello, per sulla scia, inutile nasconderci dietro un dito, di quello che è stato l'effetto Fiat Mirafiori, sulla scia di un nuovo modello che dice c'è il contratto nazionale, però ci possono essere anche dei contratti aziendali che sostituiscono, non integrano, ma sostituiscono il contratto nazionale. Poi ascolteremo magari dopo cosa ha detto il presidente Marcegaglia ieri su questo, però il tavolo è iniziato, molte perplessità da parte dei sindacati. Sentiamo Giuseppe Farina, che è il segretario generale della FIM, al microfono del nostro Andrea Viali subito prima dell'incontro. Quella di Federmeccanica è una proposta, un'ipotesi che appunto non è né il momento per discutere, e poi anche sul merito io avrei molte, diciamo, riserve, anzi le abbiamo già esplicitate, quindi è un tema che oggi non si pone e che io penso non si debba porre neanche da qui a pochi mesi, insomma. Il modello contrattuale prevede una verifica, diciamo, 6 mesi prima della sua scadenza. Quella è la sede dove, se ci sono ulteriori innovazioni da apportare, Federmeccanica o Confindustria potrà certamente farlo. Sulla rappresentanza, appunto, che è il tema vero che rimane aperto, noi noi stiamo sollecitando le confederazioni perché si apra il tavolo. C'è un documento comune, unitario, un punto di equilibrio molto importante raggiunto nel 2008. Io credo che quella dovrà essere la base sulla quale appunto costruire le nuove regole che garantiscono da una parte la possibilità dei sindacati che hanno una rappresentanza di poterla esercitare e quindi da questo punto di vista risolvere anche quello che lo Statuto dei diritti dei lavoratori non risolve. E dall'altra deve garantire il fatto che se c'è una maggioranza che si esprime a favore di un accordo, questo debba essere un vincolo anche per le minoranze. E così la CISL, o meglio la FIM, la posizione della UIM non è molto diversa, sempre di perplessità, sempre molto fredda. Sentiamo al microfono del nostro Andrea Viali che cosa ha dichiarato il segretario generale della UIM, Rocco Palombella. Lo spirito sarà proprio questo, quello di avere un peso di responsabilità, che è quello non di deregolamentare un sistema, ma quello invece di rafforzare un sistema, il sistema contrattuale. E l'obiettivo sarà quello di far rientrare le due NUCO di Pomigliano e di Mirafiori all'interno del contratto nazionale di lavoro. Quindi molto probabilmente oggi sarà il primo incontro, ma noi diamo molta importanza a questo incontro, perché più passa il tempo e più il rischio è che ci sono degli appetiti che mettono nelle condizioni di demolire il contratto. E questi appetiti ovviamente vengono dalle imprese, vengono dalle organizzazioni aziendali che colgono questa occasione per cercare di regolamentare il sistema. Noi non siamo d'accordo. L'obiettivo nostro è di considerare le due NUCO un'eccezione e tutto il resto deve rientrare all'interno del contratto nazionale di lavoro. E quindi è stata un'eccezione, una parentesi, quello che è successo a Mirafiori. Si torna al contratto nazionale del lavoro con la possibilità poi di ampliare la trattativa nel contratto aziendale. Questa è la posizione dei sindacati. Dopo il GR ascolteremo anche il pensiero di Emma Marcegaglia, ieri ospite da Fabio Fazio, ma soprattutto ci occuperemo di questa agenda di governo in tema di politica economica. Da sei mesi il governo è fermo, secondo la Presidente degli Industriali. 349-238-6666 per i vostri sms. Il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di politica economica, quindi ogni tanto torniamo anche ai temi di casa nostra. Vedo molte messaggi ancora sul federalismo, aspettiamo di vedere che cosa succederà con la riformulazione che il ministro Calderoli ha promesso e poi vedremo di analizzarlo come sempre sui fatti o perlomeno sul disegno di legge. Dicevo invece politica e economia, si torna a parlare di politica economica dopo l'intervento di ieri della Presidente Confindustria Emma Marcegaglia nel programma di Fabio Fazio. La frase più forte, ve la facciamo riascoltare, riguarda l'azione non sufficiente del governo da sei mesi a questa parte. Voglio essere molto onesta, secondo me nella prima parte, cioè i primi anni, gli anni della crisi, il governo ha tenuto i conti pubblici a posto. Alcune cose sono state fatte, gli ammortizzatori sociali in deroga, la riforma dell'università, alcune cose sono state fatte. Ora però serve di più, bisogna proprio fare le famose riforme strutturali, liberalizzazioni, pubblica amministrazione, infrastrutture, ricerca e innovazione. Da sei mesi a questa parte l'azione del governo non è sufficiente. Allora io credo che nel giro delle prossime settimane bisogna capire se questo governo è in grado di andare avanti per fare le riforme, se lo deve fare però allora deve dimostrare che è in grado di fare le riforme, o se non c'è la maggioranza, non c'è la coesione, allora bisognerà fare altre scelte. Il paese non può più aspettare. Allora, molte reazioni. Oggi vedo anche il ministro Sacconi che poco fa ha detto la Presidente Confindustria Marcegaglia è stata ingenerosa nel parlare ieri di governo, insufficiente negli ultimi sei mesi, non ha tenuto conto degli accordi a Pomigliano e a Mirafiori che un governo diverso avrebbe certamente osteggiato. accordi con Emiliano Mirafiori. Obiettivamente il governo, come sempre, fa da così da mediatore, ma li fa la Fiat con i sindacati che ci stanno. Ma al di là di questo, devo dire che molti esegeti che si dilettano e esercitano in queste ore, io ricordo semplicemente che al convegno del Centro Studi di Confindustria a Parma ad aprile, l'intervento di Emma Marcegaglia fu molto simile, cioè si chiese al governo di fare, di agire, alla maggioranza agisca, faccia le riforme, superata la fase, e da tutti viene riconosciuto il ruolo del ministro Tremonti nel mettere in sicurezza il paese nella parte peggiore, ossia diciamo inizio 2009, tutto il 2009. E allora ringrazio e saluto per averci raggiunto in collegamento Mario De Aglio, che oggi scrive di agenda delle politiche economiche, non solo quelle nazionali, anche quelle internazionali, in prima pagina sulla Stampa, con un articolo dal titolo, anzi un fondo dal titolo I problemi che l'Italia ha scordato. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, ascoltiamo anche altri due passaggi, visto che tanto poi ce li chiederanno gli ascoltatori. Il passaggio sulla Fiat, o meglio, sui modelli contrattuali, visto che ne abbiamo appena parlato dopo con le dichiarazioni prima dell'ingresso in trattativa tra i vari sindacati. Marcegaglia ha escluso ieri che dopo quanto avvenuto a Mirafiori, quindi un contratto per la Fiat fuori dal contratto nazionale dei metalmeccanici, la Fiat che esce da Federmeccanica, quindi dalla rappresentanza confindustriale, ha negato, dicevo, che questo rappresenti la fine del contratto nazionale. Noi fino adesso abbiamo fatto un po', abbiamo avuto una logica che una cosa valeva per tutti, valeva per la Fiat, valeva per la piccolissima impresa, valeva per l'impresa del nord, per l'impresa del sud. Questa cosa non funziona più, il mondo è molto variato, l'economia è molto diversa, allora noi dobbiamo trovare il modo affinché ogni impresa attraverso le relazioni sindacali aumenti la propria competitività. Allora c'è il caso Fiat che vuole un contratto per sé perché ha certe caratteristiche, ricordo solo che anche in Germania, dove lei sa c'è una grande tradizione di rapporti tra sindacati e industrie, la Volkswagen per esempio ha un contratto proprio, quindi ci sarà il caso Mirafiori, il caso Fiat, ma ci saranno la stragrande maggioranza delle imprese che continueranno ad avere un contratto nazionale, magari più leggero, con più possibilità di fare un contratto a livello aziendale, perché è lì che noi possiamo alzare il salario e alzare la produttività delle imprese. Quindi non è assolutamente la fine del contratto nazionale. È una maggiore variabilità nelle cose da fare, perché il mondo è diverso, le aziende hanno esigenze diverse. E poi la frase che vedo che molti chiedono di poter ascoltare, va bene, quella sull'immagine dell'Italia all'estero. Ora, è tutta la settimana, ripeto, che stiamo fuori dal tema, perché diciamo non è un tema di economia né di finanze né di politica economica, è indubbio, ma questo non lo diciamo noi, basta guardare la rassegna stampa dei giornali stranieri, che della vicenda del premier, della vita privata barra pubblica del premier si stia occupando tutto il mondo e tutti i principali quotidiani. Emma Marcegaglia, sull'immagine che esce in questi giorni dell'Italia all'estero. Chiaro che dai giornali italiani e esteri esce un'immagine dell'Italia non positiva e questo ha un impatto. Ecco, io quello che cerco di fare ogni volta che incontro una persona che sta all'estero è però di sottolineare che esiste anche un'altra Italia, no? Esiste un'Italia di tanta gente che va a letto presto, si sveglia presto, lavora seriamente, fa impresa seriamente, lavoratori che lavorano, donne che si impegnano, fanno le madri, fanno le lavoratrici. Quindi c'è un'altra Italia che non appare, che però è un'Italia importante. Ricordiamoci che noi siamo i secondi più grandi esportatori dopo l'Europa, siamo la quinta potenza industriale, siamo leader su un sacco di nicchie. Se lei parla con alcune aziende multinazionali, ti dicono che nonostante tutto investono in Italia perché i nostri lavoratori, le competenze, la qualità delle persone è buona. Quindi c'è un'altra parte del paese che forse bisogna un pochettino, secondo me, promuovere e far capire che c'è questa parte d'Italia che è molto importante. Mi dice lei che va a letto presto. È interessante questo che nonostante tutto investono in Italia, come ammissione che insomma nonostante quello che l'Italia riesce a farsi come danno. Allora, professor De Aglio, al di là di ogni giudizio politico, perché non è questo il programma, vorrei capire, prima, anzi me li dice dopo il traffico, professor, quali sono i temi in agenda che avrebbe dimenticato il paese, nel caso specifico il governo, in questi

permettono di superare i problemi delle dimensioni di imprese italiane attraverso il mettersi in rete, in filiera, legislazione ad hoc sui distretti industriali, quello si può fare, ma oltre a quello non si va. No, guardi, la politica industriale indiretta si può fare come? Si può fare sia, come dice lei, favorendo indirettamente certi settori, cioè creando delle situazioni più favorevoli perché questi settori si sviluppino, sia poi procurando i fattori adatti. I fattori adatti, lavoro e capitale in prima approssimazione, capitale umano in seconda approssimazione, proprio qui non si vede nulla, non si vede che tipo di economia possa emergere, avremo un mare di piccole imprese con qualche impresa media e tutti dovrebbero più o meno seguire i corsi della congiuntura internazionale con un po' di ritardo e con un po' meno vigore degli altri in un paese che continua a perdere quota. Noi eravamo in settori fondamentali dai quali siamo usciti, non è colpa di questo governo, ma prendendo l'arco di 15 anni a quello che è successo all'elettronica, a quello che è successo alla chimica, alla farmaceutica, e adesso dovremo quantomeno pensare a quali settori ci piacerebbe avere, in quali settori ci piacerebbe entrare, ma non lo stiamo facendo. Ecco, sul ministro Tremonti, perché insomma, io adesso non voglio fare il difensore di Tremonti, ma difendo sempre gli assenti. Però tutti riconoscete e riconosciamo che Tremonti sulla linea dei Ciampi, dei Dini, degli Amato, dei Padoa-Schioppa ha obiettivamente messo in sicurezza i conti pubblici, le manovre per quanto dolorose ci sono state, non c'è stato un aumento del, o meglio c'è stato, ma come effetto congiunturale del deficit e del debito, insomma l'Italia non è sotto attacco, gli vengono riconosciuti questi meriti anche a livello europeo. Domanda, ma non è che Tremonti adesso sta fermo perché la buriana è tutt'altro che finita? Nell'ultimo intervento all'Ecofin ha detto che questo è come un videogame in cui abbatti un mostro e te ne torna un altro, per cui che in realtà questa prudenza di Tremonti prima di aprire la scarsella, il portafoglio verso le opere infrastrutturali che sono messe a disposizione ma poi i soldi mancano, non sia una cautela legittima, cioè prudente, di sana e prudente gestione del paese? Guardi, io credo che Tremonti abbia fatto bene e stia facendo bene dal lato del contenimento della spesa, poi molti strillano, il ministro della spesa deve essere cattivo in questi periodi e lui lo è stato anche con la sua maggioranza e questo gli torna a merito, però non può sostituire la mancanza di visione. E guardi che gli altri paesi europei che sono nella buriana, che hanno davanti i mostri come li abbiamo noi, una visione ce l'hanno, i francesi hanno molto chiaro dove vogliono andare, i tedeschi ancora di più, gli inglesi comunque si sono dati una sterzata e vogliono andare in una certa direzione, ma l'Italia forse non si sa, c'è l'opacità più totale su quelli che sono i fini, bisognerebbe discutere su come questo paese vede se stesso tra, non dico nemmeno 20, ma tra 15 o 10 anni, a quale posto a livello mondiale, che cosa vuole fare in questo mondo, oppure se preferisce che i giovani più bravi continuino ad andare via. Allora mi dia un'ultima risposta, abbiamo un minuto. Allora, perché Tremonti, secondo lei, dopo aver fatto così bene nella tenuta dei conti pubblici, comunque averli messi in sicurezza, non ha fatto il passo successivo? Secondo me per un motivo molto chiaro, che Tremonti nel fare la messa in sicurezza dei conti pubblici ha una sponda, che è l'Europa. E infatti in diverse occasioni ha detto piuttosto mi dimetto, sapendo bene che le sue dimissioni non sono possibili perché altrimenti il paese perde credibilità. Sul lato della crescita non ha nessuna sponda politica, perché le forze della maggioranza, ma anche quelle dell'opposizione, non hanno una visione chiara di dove vogliono andare. Ma non c'è neanche lui a questo punto? Chi lo sa, quello bisognerebbe chiederglielo, ma bisognerebbe chiederglielo in privato, perché immagino che in pubblico... Neanche sotto tortura. Va bene, grazie all'economista Mario De Aglio, che insegna appunto economia di Trovista della Stampa, grazie anche a lei. Grazie, arrivederci. Allora, vedremo, si parla molto di Tremonti in questo periodo, noi ce ne occupiamo solo come politiche economiche e politiche industriali, ti occuperai... No, di Tremonti no, Giuseppe... Di no. Saviano, di Dele Mora. Sì, Dele Mora, di Sabina Began, di Emilio Fede, e di Ignazio Marino, qui leggo, di Vittorio Sgarbi. Dell'Italia che non va a letto presto, diciamo. Sì, tu hai letto presto? No, assolutamente no. Come tutti i giornalisti. Il discrimine ormai è tra chi va a letto presto e chi fa tardi. Bah. Allora, tra poco la zanzara, da Sebastiano Brisoni la auguro una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.